DJ Fast Cut. Qual è il motivo, Giovez e V-Fox? Missione compiuta, volume 1 mixtape. I miei homies da Torino. Yo, yo, salute. What's the reason now? What's the reason now? That's a prison town. That's a prison town. Never back down. Never back down. Still proud, first proud. Mo dimmi tu qual è il motivo per essere più decisivo in quello che scrivo. Almeno riesco a completare un obiettivo ogni tanto. Ma la vita costa cara quanto, ormai è una scommessa. È difficile mantenere una promessa. La situazione pensi che cambia, ma rimane sempre la stessa, più complessa. Io ho fatto la mia, tu fai la tua mossa. La gavetta serve per farti le ossa, per forza. Il cervello stretto in una morsa, nessuna meta. Sul ring niente pietà. Ricordati che vali più di loro, loro solo la metà. In strada è una battaglia, giro con la gentaglia. Assassino di lirica, è difficile che sbaglia. Sulla mia testa c'è una taglia. Il mondo di mediocri, se ne vanno i migliori, se ne vanno i migliori. Hai una schiera di domande disposte, nella testa cerca risposte. Alright, tutto a destra per vederci chiaro. Mi avvalgo di ultravioletti, mi chiedo perché esistano ultraviolenti. Senti me, tu non hai method man e ti sorprendi. Sei più atteso Candy Crash del real rap, che cos'è? La speranza che cos'è? Ciò che non ha sembianza però c'è. Tell me why I gotta follow this sound. Sento vuoto dopo l'abbandono di Primo Brown. Se rapizzo colonizzo tipo Chinatown. Baby fly down, scusa se spingo forte l'underground. Quante crew di clown. Rivoglio il Tucci clan, resto schivo, esco e scrivo. Il tuo testo è privo di motivo, sei ricco di fan. Culo sfondato, successo assicurato. Ma qual è il risultato? What's the reason now? What's the reason now? That's a prison town. That's a prison town. Never back down. Never back down. Still proud, first proud. What's the reason now?